Allora, io incomincio. Il titolo lo sapete qual è, perché ne avete già, immagino, parlato nelle classi. È un titolo molto ambizioso: La pace sociale e la pace internazionale nell'età dei lumi. Vedrete che io però la prendo alla lontana, perché altrimenti non si riesce a capire bene in che cosa consiste questo problema qui della pace. Bisogna capire che il problema della pace è un problema che ha tante facce, che è fatto di tante cose, che non è solo una questione di volontà degli uomini, ma che è un problema che si nutre e è costituito di tanti comportamenti in tanti campi diversi dell'agire umano, e solo se si sta attenti nell'azione in tutti i campi si può allora si possono costruire le condizioni perché si possa parlare di pace. E allora il problema della pace sociale e della pace internazionale vedrete che diventa un problema strettamente collegato. Cioè, la pace non è solo una cosa che si può stabilire con dei trattati fra gli stati, ma deve invece nascere da una abitudine e da una capacità di convivenza degli uomini fra loro anche nella loro vita quotidiana, perché altrimenti non si capisce niente. Dopo, quando scoppiano le guerre, come è successo anche recentemente, ci si trova di fronte a avvenimenti che non possono più essere padroneggiati e non c'è niente da fare, nonostante tutte le manifestazioni che si possono fare. Adesso io incomincio a leggere. Il corso che abbiamo preparato quest'anno è, come sapete, dedicato al problema della pace. Avete avuto la prima lezione della professoressa Seidel Menchi su Erasmo e sulla sua idea della pace. Perché abbiamo cominciato da lì? Perché il pensiero del Rinascimento, di cui Erasmo è uno dei principali esponenti, ha portato a compimento un'esigenza fondamentale dei primi uomini moderni, proprio in ordine al tema della pace. Se si vuole essere molto sintetici, si può infatti dire che tutta la prima parte della storia politica dell'Occidente, svoltasi durante il Medioevo, si è incentrata intorno al problema di una convivenza pacifica degli uomini, desiderosi di porre un limite alla conflittualità diffusa che dominava la vita in quel periodo. La società medievale era infatti caratterizzata da una grande molteplicità di soggetti collettivi che erano rimasti sottoposti per secoli a una grande mobilità e a una grande competizione fra loro. Il richiamo generale alle strutture della Chiesa da una parte e del Sacro Romano Impero dall'altra aveva sì creato una specie di unione di tutta l'Europa nell'ambito della cosiddetta Res Publica Cristiana, ma non era riuscito a fornire regole concrete per la soluzione dei conflitti sempre più numerosi che sorgevano fra i diversi soggetti in gioco, le città, le corporazioni, le prime signorie e via dicendo, nella complicazione dei rapporti fra il persistente antico mondo feudale e la nuova realtà delle città e dei nascenti principati, che quella lì, i primi secoli, dal 1000 al 1500, sono stati secoli in cui si è verificata questa grande trasformazione, da un sistema rigido, statico e molto gerarchizzato che era il sistema feudale, a un sistema sempre più aperto e sempre più mobile che era quello delle nuove città, soprattutto italiane ma anche del nord Europa, no? In cui si è cominciata a svolgere la vita moderna, produttiva, di commerci, di scambi e così via. Lo scontro fra queste due realtà ha tenuto in vita per tanto tempo una grande conflittualità. Così si spiega il costante richiamo durante l'intero Medioevo alla cosiddetta pace eterna, come la chiamavano loro, che non era la pace di quando si è morti, ma una pace durevole qui in vita, che voleva dire appunto la prefigurazione di norme, di regole, di leggi capaci di assicurare la pace anche al di fuori e al di là dei contratti, dei patti quasi privati che i diversi gruppi di volta in volta stipulavano fra loro. A lungo la pace si poteva ottenere solo proprio mediante la stipula di patti fra questi gruppi a cui accennavo prima, patti che venivano proprio scritti e sottoscritti, ma la pace era collegata solo all'esistenza di quei patti lì, non era un qualche cosa che esisteva a prescindere da patti concreti, da contratti concreti che venivano stipulati. Le moltissime carte, la più importante di tutte è la famosa Magna Carta inglese del 1215, di cui vi ricorderete, le moltissime carte stipulate fra i diversi soggetti interessati appunto dal XII al XVI secolo sono la più evidente dimostrazione di questo stato di grande mobilità e conflittualità. Con la sempre maggiore materializzazione della vita, a seguito dell'incremento dei rapporti di produzione e di scambio all'interno soprattutto delle città mercantili italiane del nord Europa, l'esigenza di una pace eterna si è sempre meglio precisata nella richiesta di una pace territoriale. Allora, le parole d'ordine che fino adesso abbiamo incontrato sono quelle di pace eterna, di pace territoriale. Nel mio testo sono in grassetto, sono evidenziate, perché sono le parole d'ordine. Abituarsi quando si sente, si legge un libro o quando si sente una conferenza o altro a individuare le parole chiave, le parole d'ordine, sono quelle che consentono poi di portare avanti il discorso. Con pace territoriale si intendeva la creazione di condizioni di sicurezza e di prevenzione dei conflitti all'interno di un territorio determinato, il quale a sua volta doveva il più possibile coincidere con l'ambito di gioco e di interferenza fra gli interessi consolidati e organizzati. Cioè questo territorio su cui si vuole stabilire la pace è quello relativo ai soggetti che operano e che hanno delle azioni da compiere e degli interessi da difendere, no? E quindi se le città sono per esempio le città mercantili del Medioevo, sono per esempio i soggetti più importanti in quel periodo lì, allora il territorio sarà l'ambito di quelle città che hanno più spesso rapporti fra di loro. E siccome questi rapporti, come tutti i rapporti degli uomini, delle volte sono rapporti tranquilli, delle volte sono rapporti tumultuosi, allora il problema è quello di definire il territorio giusto su cui fissare le regole perché i rapporti non siano tumultuosi ma siano pacifici. Questa che è una banalità per noi, ci sono voluti secoli per capirla e per metterla in atto, per trovare una forma di soluzione di questo problema. È in questa fase storica che interviene Erasmo, con la sua idea di una pace internazionale, capace in qualche modo di restaurare l'ideale dell'antica Repubblica Cristiana, ma capace soprattutto di prevenire i gravissimi danni che si profilavano all'orizzonte dell'Europa a causa soprattutto della spaccatura provocata dalla riforma protestante. Nel XVI secolo, come avete imparato anche lo sai del Menke, come sapete, questa straordinaria vicenda di Lutero e degli altri riformatori, no, che hanno proposto un diverso modo di concepire la religione, di organizzare la fede, provoca una spaccatura di quella egemonia, di quel monopolio che fino a quel momento lì aveva avuto la Chiesa romana, e quindi questo porta ulteriori elementi di conflittualità evidentemente. Erasmo tenta di rispondere anche a questo problema, come sapete. Le guerre in realtà scoppiarono, nonostante Erasmo, e furono prima di tutto guerre civili, cioè non guerre fra stati diversi, ma guerre all'interno dello stesso Stato, cioè le guerre più interne e dolorose, in cui il nemico si confonde spesso con il fratello ed è impossibile separare il giusto dall'ingiusto, e tutto sembra essere contemporaneamente giustificabile e allo stesso tempo condannabile. Le guerre civili sono le guerre più tremende di tutte, perché spaccano le famiglie è sangue fraterno che scorre, c'è meno legittimazione, più facile ammazzare un nemico riconosciuto come tale, perché ha una pelle diversa o perché lì si possono trovare delle spiegazioni più immediate. Ma quando la guerra riguarda una comunità al suo interno, come è il caso della guerra civile, allora davvero si raggiunge il massimo della violenza e della durezza della guerra. Sulle guerre civili, originariamente religiose, si innestarono poi le guerre fra stati che seminarono il panico e la miseria in Europa per quasi tutto il Seicento. Questo secolo sanguinoso, fra la metà del Cinquecento e la metà del Seicento, fu però paradossalmente quello in cui fu data la risposta più piena al problema della pace di cui abbiamo parlato all'inizio, cioè come pace territoriale. Fu infatti il secolo in cui sorse e si sviluppò lo Stato moderno, questa è un'altra parola chiave, inteso come quella forma politica in cui il potere si organizza e si esplica in modo strutturato e prevedibile sopra un territorio integrato e unificato, i cui abitanti sono legati all'obbedienza non più per via di legami personali con il loro signore, ma per via della condizione oggettiva di essere sudditi dello Stato stesso. Questo è un punto molto importante, questo passaggio da un legame politico personale tra il suddito, il soggetto e il signore, il padrone delle terre su cui lui vive, e invece un legame fra il suddito e lo Stato è un elemento molto importante per capire che cosa è successo in questo periodo. Voi sapete che quella formula dello Stato moderno che ho appena descritto fu così vincente da risolvere in base al criterio territoriale anche lo stesso problema religioso. La pace di Augusta fissò infatti il principio del cuius regio e ius religio, cioè ogni territorio poteva avere solo una religione ufficiale, detto molto banalmente. Ma allora di nuovo vedete l'importanza del territorio che in qualche modo è riuscito a disinnescare i gravi pericoli che erano insiti nei conflitti e nelle contrapposizioni religiose. E la pace di Vestfalia del 1648, con cui finisce la pace dei Trent'anni, codificò quel principio, assicurando la sovranità anche a una serie di principati, soprattutto tedeschi, che fino a quel momento erano esistiti solo come parti dell'impero. Dopo questa breve introduzione, veniamo ora meglio allo Stato, meccanismo così importante per la regolazione della guerra e per l'organizzazione della pace. Cominciamo dalla pace interna. Allora, la pace, che abbiamo visto, può essere interna o esterna. Cominciamo dalla pace interna. Allora, questa è un'altra parola chiave. Quest'ultima consiste nella prevenzione dei conflitti all'interno del territorio a cui si riferisce lo Stato. Come fa lo Stato a raggiungere questo obiettivo? Vi sono due modi principali. Il primo è di dettare regole di comportamento valide per tutti i sudditi su tutto il territorio. Il secondo è di avocare a sé, lo Stato, il principe, il sovrano, insomma gli organi che comandano nello Stato, avocano a sé, chiamano a sé la soluzione di tutte le controversie, eliminando ogni tipo di giurisdizione intermedia. Quindi prima cosa, dettare regole valide su tutto il territorio, per tutti i sudditi che vivono sul territorio. Seconda cosa, lo Stato dice adesso mi occupo solo io di far sì che queste regole vengano rispettate. Non lascio che siano più i signori di una volta, tutti questi piccoli signori sparsi sul territorio di una volta, che siano loro a mettere in pratica queste regole. Le due cose vanno di pari passo e si basano sulla possibilità che lo Stato a un certo punto acquista di disporre, questo è molto importante, di un apparato efficiente di funzionari amministrativi capace di intervenire in tutti i principali settori della vita associata, da quello della criminalità a quello dell'economia a quello dell'educazione, tanto per fare degli esempi. Lo Stato, per poter fare questa roba, per poter svolgere questa funzione, ha bisogno di dotarsi di un apparato, di una struttura di intervento che prima non c'era. Lo Stato c'è solo quando si crea questa struttura, quindi è una grande rivoluzione che si compie in quel secolo lì che vi ho detto, dalla metà del 5 alla metà del 600. Lo Stato moderno che si viene formando in questo periodo è proprio caratterizzato dalla costruzione di una burocrazia, questa è un'altra parola chiave. Allora, l'apparato di cui ho parlato, che serve allo Stato per emanare ordini e per assicurare il rispetto di questi ordini, possiamo dire sinteticamente che si chiama burocrazia. Questa burocrazia deve essere in grado appunto di determinare tutte le procedure necessarie a cui i sudditi si devono attenere per il raggiungimento dei loro obiettivi, ma deve essere anche in grado naturalmente di imporre il rispetto di tali procedure. A quei tempi questo complesso di attività statali svolte dalla burocrazia si chiamava polizia, in francese police, in tedesco polizei, in inglese police, che è qualcosa di diverso dalla polizia moderna, quella che noi vediamo circolare per le strade con le gazzelle, ma contiene già l'idea della necessità di un intervento sia preventivo che repressivo dall'alto, dello Stato, per uniformare i comportamenti dei sudditi e per garantire la pace sociale. Ecco che siamo arrivati alla pace sociale che stava nel titolo, no? Abbiamo passato tante forme di pace, siamo arrivati alla pace sociale, altra parola chiave evidentemente. Per questo motivo si parla tecnicamente anche di stato di polizia, per indicare questo tipo di stato, che costituisce in certo modo l'antenato del nostro stato attuale, quello in cui viviamo ancora oggi. Il mantenimento di un apparato burocratico capace di svolgere questo ruolo richiede ovviamente la disponibilità da parte dello Stato di mezzi finanziari adeguati, perché costa la burocrazia, costa lo Stato. Ora, infatti, i funzionari amministrativi vanno pagati e i mezzi personali del sovrano non sono più sufficienti allo scopo. Prima invece erano i signori stessi che gestivano, diciamo così, la convivenza. I signori, i piccoli signori sul territorio, erano i proprietari dei fondi e così via, e ricavavano praticamente vantaggi dall'esercizio di questa funzione di regolazione. Quindi praticamente non c'era bisogno di prevedere anche delle entrate dello Stato perché lo Stato medesimo potesse funzionare. Adesso invece, con questo meccanismo che si mette in moto, si pone immediatamente il problema di questi mezzi finanziari. È così che lo Stato moderno deve impiantare anche un sistema adeguato di finanziamento della sua attività di pacificazione sociale. Nasce insieme alla burocrazia anche un moderno sistema fiscale. La burocrazia richiede un sistema fiscale che prima non c'era, che consiste nella tassazione dei sudditi, cioè di quelli che vengono pacificati, no? Che ottengono il vantaggio della pace da parte dello Stato e che sono chiamati a contribuire per pagare questo servizio. Tassazione dei sudditi secondo criteri all'inizio primordiali, primitivi, ma poi sempre più raffinati, di tassazione delle ricchezze private esistenti. Quindi vedremo che collegato al problema burocrazia e sistema fiscale c'è immediatamente il problema della ricchezza. Perché se non c'è una ricchezza non si può tassare, e se non si può tassare non si può far funzionare il meccanismo dello Stato. Allora vedremo poi dopo che il problema della ricchezza richiama immediatamente il problema dell'economia. Allora è lì che diventa importante il problema dell'economia, è da quel periodo lì che il problema dell'economia diventa importante, come è adesso importantissimo, comincia a diventare importante lì. Ma il problema dell'economia, vedremo, ha una parte fondamentale proprio nella strutturazione del problema stesso della pace. Questo che io voglio che voi capiate. Allora, anche sotto questo profilo, lo Stato di polizia è all'origine del nostro Stato contemporaneo, che voi sapete ha nell'economia la sua forse parte più cospicua. Ma la componente finanziaria dello Stato è importante anche sotto due altri profili che restano a loro volta validi fino a oggi. Mi riferisco in primo luogo alla necessità che lo Stato ha di creare un esercito stabile. Questa è un'altra struttura, è un'altra parola chiave. Burocrazia, sistema fiscale, esercito stabile. La pace interna di un territorio, di uno Stato, ha infatti come suo prerequisito fondamentale la capacità di difesa del territorio da attacchi dall'esterno. Questo è il prerequisito fondamentale. Oltre che in certe circostanze, badate bene, anche la capacità di allargare il territorio stesso per accrescere la dimensione dello Stato e la sua potenza, cioè la sua ricchezza. Allora voi vedete che nel momento in cui questo Stato si compie, si realizza per assicurare la pace sul territorio, mette però in moto anche un meccanismo che apre la strada a nuove guerre, perché uno Stato per poter incrementare la sua ricchezza è portato tendenzialmente ad espandersi e quindi a portare guerra agli Stati vicini. Quindi questo problema della guerra, che sembrava neutralizzato, no? Risolto per la prima via, per le prime cose che abbiamo detto, torna dentro dalla finestra un'altra volta. Se la pace sociale interna si basa sull'unità del territorio, è comprensibile che quest'ultimo debba poter essere difeso e in certi casi anche ingrandito. È in tal modo che la pace interna si lega strettamente alla possibilità della guerra esterna, cosicché si può dire, in modo un po' forzato, che l'esigenza degli uomini viventi su un determinato territorio organizzato in Stato di vivere in pace è collegata alla possibilità che esso, lo Stato, ha di fare guerra ad altri territori, ad altri Stati. E questo è il paradosso, è la tragedia, diciamo così, che è radicata dentro fin dall'inizio in questa soluzione statale del problema della pace e della guerra, che è la soluzione che viene adottata in Occidente a partire dall'età moderna, cioè dal 5-600. È proprio una contraddizione interna che non si può, per via della soluzione che si è scelta, non si può evitare, che rimarrà fino ad oggi. La guerra viene in certo qual modo trasportata all'esterno di ogni singolo Stato e diventa però da guerra interna guerra internazionale. In tal modo si può anche osservare che la guerra moderna acquista caratteri differenti da quelli che aveva in precedenza, caratteri meno cruenti e meno dolorosi, in cui il nemico è sempre facilmente riconoscibile, perché è il suddito di un altro Stato, ha un'altra divisa addosso. E le stesse azioni di guerra si possono svolgere secondo regole più definite. Cioè questa specie di salto di qualità, di mutazione di significato che la guerra ha assunto attraverso la creazione dello Stato moderno, porta non all'eliminazione della guerra, ma in qualche modo alla possibilità di una guerra che è diversa da quella di prima, cioè che è in qualche misura più prevedibile e anche più regolabile, più controllabile, e quindi è meno dannosa e meno tremenda della guerra interna precedente. Lo dimostra, ciò è dimostrato, questo passaggio è dimostrato dall'importanza che acquista in questo stesso periodo, già nel 5 e nel 600, il cosiddetto diritto internazionale, il cui testo fondativo, scritto agli inizi del 600 da un grande giurista di nome Ugo Grozio, che avete sentito parlare, si intitola proprio De Iure Belli Ac Pacis, cioè il diritto di guerra e di pace. C'è l'importanza del diritto internazionale. Voi vi ricorderete che anche in occasione dell'ultima tremenda guerra che abbiamo visto, che è stata quella del Golfo, continuamente si è fatto ricorso a questo diritto internazionale, al ruolo dell'ONU come possibilità di prevenire e di regolare la guerra. È ancora in qualche modo un'utopia, però certo che molta strada si è fatta in questa direzione. Si potrebbe dire forse così: come la pace sociale richiede la burocrazia, così la guerra internazionale richiede l'esercito. Entrambe queste strutture richiedono a loro volta un sistema fiscale sempre più imponente per poter essere efficaci. In tal modo lo Stato moderno si presenta come l'insieme organizzato sotto la guida unitaria di un sovrano di quei tre fattori che abbiamo visto, la burocrazia, l'esercito e il fisco, allo scopo di assicurare l'unità del territorio e la difesa dei sudditi in esso operanti, rispetto sia alla conflittualità interna che ai rapporti internazionali. Questa era una definizione conclusiva che io ho fatto per questa parte di discorso che ho fatto fino adesso. Sono già a pagina 4 e mezzo, quindi siamo a metà circa del ragionamento. Cercate di andare avanti ancora un po'. È evidente che per poter funzionare questo insieme organizzato che è lo Stato ha bisogno di mezzi finanziari crescenti. Questi ultimi sono evidentemente corrispondenti al grado di ricchezza della popolazione raggruppata nel territorio. Il secondo profilo per il quale è importante la componente finanziaria è proprio questo. Non è un caso che il testo fondativo della scienza economica moderna, che viene scritto verso la metà del Settecento da un inglese, uno scozzese, no? Che si chiama Adam Smith, ha un titolo che è The Wealth of Nations, la ricchezza delle nazioni. Capite come la scienza economica moderna viene fondata da questo grande studioso, che poi era un filosofo, Adam Smith, e con un testo che si intitola proprio La ricchezza delle nazioni. Ma il problema era ben presente anche prima del Settecento. Già dagli inizi del Seicento, infatti, cioè in concomitanza con lo sviluppo dei tre fattori che abbiamo visto dello Stato moderno, no? La burocrazia e il fisco, si era sviluppato un movimento sia teorico che pratico che affondava con forza nella realtà economica e che è noto col nome di mercantilismo, altra parola chiave. Vediamo brevemente di cosa si trattava, partendo dalla dimensione statale del fenomeno. Mercantilismo, vedremo, ha due aspetti, un aspetto statale e un aspetto sociale. Adesso vediamo l'aspetto statale. Il punto di partenza è rappresentato, direbbe un vecchio marxista, dal profondo mutamento intervenuto nel modo di produzione, cioè nel modo come vengono prodotte le merci, anche a seguito e comunque in corrispondenza con il grande sviluppo scientifico e tecnologico in corso già dal Cinquecento e anche da prima. È riassumibile nelle crescenti possibilità di sfruttamento da parte dell'uomo delle energie naturali. Questo è il segreto di tutta questa grande, questo sviluppo tecnologico, no? Delle invenzioni scientifiche e tecniche, delle scoperte scientifiche, delle invenzioni tecniche, che gli uomini mettono in atto a partire dal 4-500, no? Leonardo da Vinci, Galileo Galilei, Newton, Bacone, Newton, insomma. C'è questo nuovo atteggiamento dell'uomo nei confronti della natura, la capacità che l'uomo ha di controllare la natura e di usare le forze della natura per incrementare la propria forza umana. Pensate solo ai mulini, no? All'invenzione dei mulini a acqua, cioè lo sfruttamento dell'acqua, della forza idrica tramite le pale. Se voi andate, spero che sarete già stati portati a visitare il Museo degli Usi e Costumi di San Michele a Ladise, che è una delle glorie trentine, dove potete vedere quello che l'ha inventato, che è Giuseppe Sebesta, ha mostrato e ha fatto vedere in che cosa consiste questa grande ergologia, questo studio dell'energia, della forza, di cui gli uomini si sono impadroniti. Allora, quando una ruota con delle pale viene messa dentro in un torrente e gira e fa muovere degli ingranaggi che fanno muovere delle macchine, allora voi capite che in questo modo si ha una moltiplicazione straordinaria della forza delle braccia. È così che, per esempio, viene inventato il telaio, no? È così che vengono inventate anche le forge moderne. È così che vengono inventati i moderni sistemi di macinazione. Allora Sebesta ci ha fatto vedere a San Michele che le tre funzioni primarie dell'esistenza dell'uomo, della sopravvivenza, che sono il mangiare, il vestirsi e il farsi gli strumenti per lavorare, i martelli, no? Possono trovare una straordinaria una capacità di soddisfazione molto maggiore di prima grazie per esempio allo sfruttamento dell'energia idrica, ma è solo un caso. Allora, da tutto questo trasformazione tecnologica si afferma, cosa succede? Si afferma una nuova organizzazione del lavoro che prende il nome di manifattura, è un'altra parola chiave, e che consiste nella riunione in un unico luogo, in un'unica sede, in un unico fabbricato di più lavoratori al fine della produzione organizzata di determinati prodotti. Un'attività produttiva accentrata, ma non ancora meccanizzata. Qualcosa che sta fra l'antico lavoro a domicilio, che era proprio dell'età medievale, no? E la fabbrica, che invece è tipica di quella che sarà la rivoluzione industriale dalla metà del Settecento in poi. In mezzo ci sta la manifattura come tappa di questa crescita della capacità produttiva dell'uomo. Ebbene, proprio negli stati più formati, come ad esempio in Francia, già nel 600 si verificò un grande interesse da parte dello Stato per le manifatture, un interesse che si è concretizzato nella concessione da parte del re, che teneva in mano tutto, come abbiamo visto, di speciali privilegi, veri e propri monopoli concessi a determinate persone per appunto incentivare quell'attività produttiva che appariva indispensabile per accrescere la ricchezza collettiva. Ecco, siamo arrivati di nuovo alla ricchezza, che è il problema che lo Stato ha per poter incrementare le sue entrate. Fu questa la principale arma della politica mercantilistica, la quale infatti si basava su una particolare dottrina economica secondo la quale la potenza di una nazione, di uno Stato, dipendeva dal fatto che le esportazioni fossero sempre superiori alle importazioni, in modo che ci fosse sempre un surplus in quella che oggi chiameremo la bilancia commerciale. Cioè bisognava esportare, significa ottenere all'estero dei denari che si portano in casa, no? Importare invece significa portare fuori di casa dei denari per comprare delle merci straniere. Secondo i mercantilisti bisognava sempre che il denaro che entrava nello Stato fosse superiore al denaro che usciva. Loro si erano fissati su questo punto come il punto primario della politica economica di questi stati moderni. Da qui la necessità di incrementare la produzione interna per evitare che si andasse a comprare merci all'esterno, no? Limitando il più possibile gli acquisti dall'esterno. Conseguenza di questa impostazione fu la creazione di un sistema di dogane ai confini dello Stato. Quindi questo Stato, territorio che ha dei confini che sono protetti dall'esercito, ha dei confini che sono anche, gli stessi confini sono anche protetti dalle dogane. Che sono, che cosa sono le dogane? Sono dei balzelli, sono il luogo dove vengono applicati dei balzelli, delle tasse alle merci in entrata, in modo da renderle più care delle merci esistenti all'interno del paese e quindi disincentivare l'acquisto di queste merci qui e evitare che della moneta interna vada all'esterno. Capite il meccanismo? Ma questo è molto importante. Voi pensate che nel 1990, alla fine del 1992, non ne avrete sentito parlare mille volte, alla fine del 1992 scatterà questa famosa nuova tappa dell'integrazione europea che consiste proprio nell'eliminazione delle dogane. Allora, queste dogane sono state create, che noi eliminiamo forse fra due anni, no? Alla fine dell'anno prossimo. Queste dogane sono state create in quest'epoca, in concomitanza con la nascita dello Stato moderno, con tutti i caratteri che vi ho detto e con questi obiettivi che esso aveva. Una notazione marginale è che queste dogane e queste imposte sull'entrata delle merci veniva applicata da parte dei mercantilisti con particolare riferimento ai beni di lusso, cioè alle stoffe preziose, per esempio, siccome prima abbiamo parlato dei telai, alle stoffe preziose, no? Per cui erano famosi certi produttori, anche italiani, nel 500 e ancora nel primo 600, no? I broccati, i grandi velluti, ma non solo, anche per esempio un'altra grande manifattura, la manifattura dei vetri, i vetri preziosi, beni di lusso, che erano quelli che in quell'epoca, contrassegnata dal dominio di ceti elitari, scompensavano maggiormente la bilancia commerciale, perché la povera gente campava con quello che gli girava per mano, che produceva nel suo campicello, eccetera, oppure faceva miseria. Erano invece i ceti alti, la nobiltà in modo particolare, i ricchi borghesi, i quali avevano bisogno di rappresentare la loro potenza con il lusso, commerci di lusso, che venivano spesso acquistati all'estero. E allora dentro la politica mercantilistica c'è anche questa particolare attenzione, che è un'attenzione che ha un significato economico, ma anche un significato sociale, come voi potete subito capire, no? Un significato di un po' che va nel senso di quella che poi si chiamerà l'eguaglianza sociale, no? L'equiparazione sociale. È inutile che insista sul fatto che anche questo orientamento della politica economica, quello delle dogane, prima mai esistito, contribuì in modo decisivo al consolidamento dell'unità territoriale, che ho già più volte indicato come condizione necessaria e imprescindibile per il consolidamento dello Stato moderno, con le sue conseguenze in termini di esercito, di burocrazia e di sistema fiscale. E infine è ovvio che tale politica economica, quindi abbiamo una politica economica, per la prima volta in quell'epoca già, parola chiave, non poté che favorire la ricchezza interna, formando la base indispensabile per la crescita delle entrate fiscali, no? Che appunto servivano al funzionamento degli apparati statali. Si determinò in tal modo anche una spinta poderosa verso quello che sarebbe stato il passo successivo della rivoluzione economica, cioè la rivoluzione industriale. Una volta messo in moto questo meccanismo che mirava la ricchezza, anche il sistema di produzione si complica sempre di più e si organizza sempre di più, e finché nel 700 in Inghilterra e poi in Francia e poi nell'800 in Germania, in Belgio, in Germania e in Italia si arriverà a quella nuova organizzazione della produzione con la divisione del lavoro eccetera eccetera, su cui ha contribuito molto lo stesso Adam Smith che abbiamo già citato prima, che va sotto il nome di rivoluzione industriale. Ma il mercantilismo non aveva solo una dimensione statale, che è quella che abbiamo appena visto, bensì anche una, non meno importante, sociale. Allora adesso passiamo alla dimensione sociale di questo processo. Essa consisteva in una crescente, sempre più consapevole, la consapevolezza, la coscienza delle azioni è una cosa sempre molto importante nella storia. È questo che conta, che fa la differenza con quello che c'era prima. Una crescente e sempre più consapevole predisposizione degli uomini al commercio come attività privilegiata dell'uomo e come base della sua stessa socialità, cioè come ragione preminente della convivenza e quindi anche dell'esistenza dello Stato, il commercio, con tutti i suoi apparati. È logico che alle spalle di ciò stava tutto il cammino compiuto dall'attività produttiva già nell'età medievale, per opera soprattutto delle città. Ma ora c'è qualche cosa di più. Il bisogno di creare strutture pubbliche, collettive, comuni, capaci di sfruttare al meglio questa predisposizione al commercio, in vista del vantaggio di tutti, di quello che anticamente si chiamava il bonum comune, il bene comune. E questo, appunto, lo Stato, con i suoi apparati, quindi con la sua potenza, con la sua capacità di imporre comandi che devono essere obbediti. Questa è una definizione sintetica di Stato. Una struttura capace di imporre sul territorio, ai sudditi che vivono sul territorio, comandi che devono essere obbediti. Questo è il punto cruciale. Tutto ciò costa caro ai sudditi, che si devono sottomettere a regolamentazioni sempre più severe, perché si fa fatica. a accettare i comandi, a obbedire. Ma i sudditi fanno ciò, accettano queste difficoltà in vista di maggiori vantaggi, cioè del loro utile. È per questa via che la vecchia ideologia del bonum comune finisce per identificarsi con quella nuova dell'utilità dei soggetti, che poi sono, questa utilità in pratica non è altro che gli interessi. Si parla sempre di più in quest'epoca di interessi. Gli interessi prendono il posto del bonum comune. Anche oggi si parla moltissimo di interessi. Che interessi ci sono? Dove sono gli interessi? Ecco, questi interessi sono in qualche modo un privilegiamento di questa novità che consiste nella predisposizione degli uomini a essere produttivi. Vi sono moltissime tracce di questa novità nella mentalità degli uomini moderni, cioè dei sudditi dello Stato. Adagio adagio, da questa mentalità e dalla conseguente attività pratica nel mondo della produzione e dell'economia, prende avvio e cresce sempre più qualcosa che si separa e si contrappone allo Stato, pur restando adesso indissolubilmente legato. Quella che ancora oggi chiamiamo la società civile. Quante volte si parla di società civile? Si dice lo Stato e la società civile. La società civile nasce da lì, è intesa come l'insieme organizzato degli interessi privati. Questi interessi privati sono quello che ho detto prima, sono il contenuto dell'economia e sono il risultato di questa nuova volontà che gli uomini hanno di essere produttivi e di vedere protetta la loro produttività da parte dello Stato organizzato. Vorrei solo fare due esempi di queste tracce, di questa nuova mentalità, due esempi letterari, diciamo così, no? Che però sono significativi. Il primo viene dall'Olanda, un paese che dopo un secolo di guerre continue per sottrarsi al dominio prepotente di potentati stranieri, di Asburgo, d'Austria e di Spagna, aveva raggiunto verso metà 600 uno straordinario sviluppo economico, soprattutto proprio nel senso mercantile di cui stiamo parlando. In quell'epoca, verso la metà del 600, viene fondata ad Amsterdam una specie di scuola superiore, di università, un'accademia per l'istruzione dei figli dei ricchi mercanti. Ebbene, all'inaugurazione di questa scuola, il direttore della scuola, un certo Barlaeus, tiene una conferenza d'apertura, come si fa sempre, che ha il titolo di Mercatura filosofica, in cui viene spiegato appunto come l'arte del mercante sia la più nobile di tutte, insegnata da Dio agli uomini proprio per favorire la loro vita in società. Il secondo esempio viene invece dalla Francia, che abbiamo già visto all'avanguardia nel mercantilismo statale e manifatturiero. Verso fine 600, proprio a seguito di un importante regolamento statale che per la prima volta aveva dato norme unitarie e statali all'attività commerciale, un commerciante intelligente e istruito di nome Savary scrive un trattato intitolato Le parfait négociant, il negoziante perfetto, in cui spiega tutti i segreti dell'arte, sottolineando ancora una volta come dal corretto esercizio di questa arte venga la ricchezza del paese e si pongano le condizioni per una convivenza felice. Nel trattato vengono anche insegnate tutte le tecniche utili a formare commercianti capaci di operare nelle nuove condizioni garantite dallo Stato, cioè nel rispetto, per esempio, di quel regolamento che citavo prima. Vale la pena di ricordare, per chiudere questo argomento, che la descritta tendenza verso una nuova economia, che è base di una nuova socialità e quindi serve a incrementare la pace sociale, riguarda in realtà massimamente ceti nuovi ed espansivi, in espansione, in procinto di fondare la loro potenza economica e di legittimarla anche socialmente. sono questi i ceti mercantili, i ceti borghesi, quelli che diventeranno adagio adagio nel corso del Settecento e dell'Ottocento la borghesia. Di quegli interessi che abbiamo visto prima, la cui organizzazione, l'organizzazione di questi ceti e di questi interessi dà appunto luogo alla società civile. È di loro, di questi ceti è la pace sociale di cui stiamo parlando. Di loro è anche in fondo lo Stato moderno. Va ricordato che l'atteggiamento ufficiale della nobiltà nei confronti di queste nuove attività produttive è e resterà a lungo negativo. Il commercio e l'attività produttiva in generale, tranne quella agricola, sono considerati dalla nobiltà arte vile e meccanica, indegni della qualità nobiliare. Un nobile nel 600 e nel 700 ufficialmente non può commerciare, non può produrre, perché questo è indegno del suo status sociale. Allora, vedete la divaricazione che c'è tra il mondo vecchio e il mondo nuovo che si apre. Lo status viene fondato da tutti, la nobiltà mantiene a lungo un grosso peso dentro lo Stato, però lo Stato in realtà, per le cose che ho detto, è al servizio più dei ceti nuovi che dei ceti vecchi, più dei mercanti e dei borghesi che della nobiltà. E infatti vedremo poi come va a finire. Infatti noi sappiamo che è proprio qui, nello Stato moderno, nella pace sociale, nella società civile, che si compie quell'ammodernamento degli stessi soggetti politici che porterà a partire dal XIX secolo, dall'Ottocento, allo Stato contemporaneo, liberale, democratico e di massa, che è quello in cui noi viviamo ancora oggi. Veniamo ora all'ultima parte di questa lezione, siamo a pagina 7,5, che tratterà più specificamente il tema che ho indicato nel titolo. La lunga introduzione che ho fatto mi è parsa necessaria per mostrarvi qual è il terreno su cui si forma e nasce l'illuminismo. L'illuminismo non fu semplicemente un movimento filosofico e intellettuale, da cui emerse il ruolo della ragione come strumento di lettura e di interpretazione della realtà. Prima e oltre che filosofi, gli uomini del Settecento erano infatti uomini attivi, come abbiamo visto, in procinto di realizzare grandi mutamenti sociali, che avrebbero dato luogo, a seconda delle circostanze, a una grande attività di riforme, altra parola chiave, da parte dei principi, per questo chiamati principi illuminati, principi del Settecento, come avvenne ad esempio in Prussia, il più grande degli stati moderni tedeschi, oppure in assenza delle riforme avrebbero portato a una vera e propria rivoluzione politica, altra parola chiave, quindi riforme e rivoluzione, le due modalità attraverso cui questo ammodernamento si svolge nel Settecento, come accadde, come sapete tutti, invece in Francia nel 1789. Occorre ricordare che il testo classico dell'illuminismo, la famosa Encyclopédie di Diderot e d'Alembert, era in realtà, come dice lo stesso sottotitolo, un dizionario ragionato delle scienze, arti e mestieri. Si riferiva cioè proprio a quel mondo imprenditoriale nuovo che ho appena ricordato come base della nascente società civile. È in tale contesto che va letto il contributo dato dall'illuminismo al tema che ci interessa oggi, che è quello dell'affermazione della pace sociale come esigenza primaria degli uomini del Settecento. Così si interpreta la scelta principale che gli illuministi compirono per una politica illuminata da parte dei sovrani, osannati e celebrati come veri e propri re e filosofi. Anche in Francia, dove pure, come ho anticipato e come sappiamo tutti, l'opera riformatrice dei sovrani fallì e non si poté evitare lo scoppio della rivoluzione, durante tutto il secolo XVIII l'azione di ristrutturazione dello Stato fu così intensa che si può oggi parlare della costruzione di una monarchia amministrativa. Allora, nel corso del Settecento, che ha studiato in modo particolare il dottor Blanco, che ha scritto un libro molto bello su questo argomento, che adesso uscirà, una monarchia amministrativa per tanti aspetti anticipatrice di quello che è diventato ai giorni nostri lo Stato sociale. E lo stesso e ancor più si può dire della già citata Prussia, in cui la tematica del benessere dei sudditi divenne così dominante in quello stesso secolo, Settecento, da far parlare esplicitamente di Wohlfahrtsstaat, stato di benessere, e da sottrarre la Prussia alla rivoluzione. La Prussia alla fine del Settecento non ha avuto la rivoluzione, perché le riforme che i principi avevano attuato sono state sufficienti a avviare, diciamo così, il percorso dello Stato su strade più pacifiche. Un Wohlfahrtsstaat che poi ha potuto svilupparsi nel corso dell'Ottocento nella costruzione di quello Stato nazionale tedesco, che poi ha combinato anche molti guai, ma questo non interessa. Questa è l'età dei lumi che ci deve interessare oggi, caratterizzata dal trionfo della nuova socialità, in cui nuovi soggetti, nuovi ceti sociali si fanno protagonisti e pretendono di gestire lo Stato per i propri scopi. Oppure, indirettamente, nuova socialità in cui nuovi soggetti si fanno protagonisti e pretendono di gestire lo Stato per i propri scopi in due modi, o indirettamente, attraverso le riforme promosse dal monarca illuminato e dalla sua burocrazia illuminata, o direttamente con la rivoluzione. L'esito a fine Settecento, ma soprattutto nell'Ottocento, sarà lo stesso in tutti e due i casi, sia dove c'è stata le riforme che dove c'è stata la rivoluzione, e cioè la costruzione dello Stato sociale, che troverà nel Parlamento, nella priorità dell'ordinamento giuridico e quindi del legislativo, nell'impostazione democratica e poi di massa, i suoi elementi costitutivi. Tutti elementi capaci di rafforzare l'esigenza primaria a cui questo Stato si ispira, che è appunto quella della pace sociale, consistente nella possibilità, garantita a gruppi sempre più ampi di popolazione, di esprimere collettivamente e pubblicamente i propri bisogni, le tante questioni sociali di cui è fatta la storia più recente dello Stato, e di pretendere la soluzione di queste questioni da parte dello Stato. Alla base di questo sviluppo, che giunge fino a noi e ancora oggi ci tocca da vicino, perché ancora oggi noi abbiamo un'infinità di questioni sociali non risolte e continuiamo a chiedere allo Stato che le risolva, e anche nel dibattito che c'è stato in questi giorni per la formazione del nuovo governo, molti hanno messo in primo piano la soluzione di queste questioni sociali. Alla base di questo sviluppo c'è proprio il problema della pace sociale, come si è venuto formando a partire dal 600 dando luogo poi nel 700 a quella socialità che rappresenta il tratto distintivo del secolo e di tutto l'illuminismo. C'è un libretto sconosciuto scritto da un signore francese di origine italiana, anche questo a fine Settecento, nel 1777, suo nome è Caraccioli, dal titolo Paris, le modèle des nations étrangères ou l'Europe Françoise. Parigi, il modello delle nazioni straniere, ovvero l'Europa francese. Questo libretto si affronta il tema del radicale cambiamento intervenuto in Europa fra 6 e 700. Le domande che Caraccioli si pone sono le seguenti. Come l'Europa è cambiata? E perché l'Europa ha cambiato dal 6 al 700? Che sono i capitoli quarti e quinti del libro. Nei capitoli successivi l'autore tratta del commercio, della politica, della giurisprudenza, della filosofia, dello spirito filosofico e dello spirito di società. Sono tutte risposte che lui dà alle due domande che ha posto. Come è cambiata l'Europa dal 600? Lui dice: è cambiata perché si sono affermate queste cose. Da questa successione di risposte date alle domande poste, si capisce subito che la ricostruzione che ho cercato di darvi fin qui coincide con le conclusioni del nostro italo-francese, che sono tutte concentrate nell'idea del predominio di quello che lui chiama l'être sociable, cioè l'uomo come essere socievole, che è autore della società e della stessa civiltà. Cosicché Caraccioli può dire: esiste una grande disparità fra gli europei del 1600 e quelli, cioè fra gli europei del 1600 e quelli del 1750. Nel corso di un secolo e mezzo, prima c'era il caos, poi invece c'è un mondo educato. E in francese, mondo educato, lui si dice, cioè Caraccioli usa questa espressione, monde policier, policier, che rimanda a quell'idea di polizia su cui ho detto qualche cosa all'inizio. Quindi mondo educato, polisè, vuol dire anche mondo sottoposto alle regole dell'apparato statale, capito? Cioè la civiltà che produce l'educazione, la politesse, eccetera, il buon comportamento, no? E appunto coincide in qualche misura con l'azione di disciplinamento, di regolamentazione fatta dallo Stato. L'analisi che fa Caraccioli è lunga e precisa, noi la sintetizziamo con due battute. Ad esempio lui dice che nel 600 la società non rivestiva alcun interesse, nessun piacere, alla gente non importava niente della socialità, della società, del stare insieme, mentre oggi quale magnificenza si è sviluppata grazie alla socialità in Europa dopo il 1700. Il risultato, conclude Caraccioli, è che ormai l'Europa non è più che una sola e medesima famiglia che abita differenti regioni. È lo stesso spirito che ci vivifica tutti, la stessa anima che ci anima. Allora siamo passati a un'altra cosa, dalla socialità così propria dell'illuminismo siamo passati a un'Europa unita nella mente del Caraccioli. Per lui la socialità, adesso è l'ultima pagina, è così importante che grazie ad essa l'Europa si è unificata, capite? Quindi in questo modo noi abbiamo raggiunto l'ultimissimo punto del nostro discorso, che è quello della pace internazionale. Per Caraccioli quest'ultima è il frutto naturale ed è tutto conseguenziale dei costumi civilizzati che a partire dalla Francia sono stati introdotti in tutta Europa. Su questa base ci si può attendere che gli uomini cessino di essere solitari e nemici fra loro e che si possa instaurare un'età di pace, finalmente duratura e universale, almeno all'interno dell'Europa. Tuttavia, noi avevamo già visto a un certo punto nel nostro discorso che la dimensione territoriale dello Stato, che è l'unica e vera condizione per la sua esistenza, comportava invece anche problemi in ordine ai confini territoriali, tanto che una delle strutture fondamentali dello Stato era proprio l'esercito, che significa guerra, sempre latente, non importa se di difesa o di attacco. Avevamo anche detto che in conseguenza di questa situazione di competizione fra gli Stati, perenne conflittualità fra loro, si era venuto elaborando anche un nuovo diritto internazionale, che allora veniva chiamato Ius Publicum Europeum, cioè diritto pubblico di tutta l'Europa, mirante a prevenire il più possibile la guerra mediante la regolazione degli accordi, dei trattati e delle alleanze internazionali, o almeno a limitarne gli esiti più tragici, controllandone lo svolgimento, fissando delle regole con cui la guerra poteva fare, con cui dovevano essere trattati prigionieri, via dicendo. Ma la guerra internazionale era sempre lì, come corollario inevitabile della divisione dei popoli in stati, fondati su territori chiusi, in competizione anche economica fra loro. Come si concilia questa realtà di fatto con i risultati a cui eravamo giunti trattando della pace sociale all'età dei lumi? Non posso dire altro che questo. Su questa tensione tra guerra e pace non si sono fatti grandi passi avanti, tanto che perfino la Rivoluzione francese, salutata da tutti come l'avvenimento più importante dell'età moderna, in cui si realizzò coi tre principi di libertà, eguaglianza e fraternità il massimo grado di pace sociale, non poté diffondere i suoi benefici effetti in Europa se non a prezzo di gravissime guerre, le quali poi accompagnarono anche durante tutto l'Ottocento i diversi movimenti di liberazione e di unificazione nazionale, finché nel XX secolo la guerra raggiunse una dimensione planetaria, mondiale, le due guerre mondiali che abbiamo avuto, e ha poi raggiunto recentemente, nella guerra fredda, il suo culmine, nel timore incombente di conflitti nucleari definitivi. Quindi, e allora? Allora c'è ancora moltissimo da fare, moltissimo da sperare e moltissimo da inventare per raggiungere un obiettivo che, per tutto ciò che abbiamo detto stamattina, è in qualche modo iscritto nella storia dell'umanità moderna, da quando essa si è messa in testa, fin dal Medioevo, come abbiamo visto in apertura, di realizzare con i mezzi umani della conversazione, del commercio, dell'incontro fra culture diverse, l'obiettivo della pace eterna. Allora non bisogna avere paura, soprattutto se si è giovani come voi, dell'utopia, e bisogna cercare di realizzare i sogni, perché tali sembravano essere anche le idee di pace sociale quando esse si affacciarono la prima volta molti secoli fa. Eppure in questo campo della pace sociale moltissimo cammino si è fatto, e così sarà anche per la pace internazionale, se sarete capaci di crederci fortemente e di realizzare i vostri sogni. L'esempio dei due grandi idealisti dell'illuminismo, di cui avrei dovuto parlarvi oggi, l'abate di Saint-Pierre e Kant, ma di cui certamente avete letto qualcosa in classe, è un esempio da seguire. Le loro idee si sono dimostrate forse concretamente impraticabili fino adesso, ma il seme che essi hanno gettato è ancora lì, che sta germogliando. Bisogna avere la pazienza di curare sempre il terreno in cui si è seminato, di innaffiarlo, di tenerlo zappato, in modo che alla fine cresca l'albero della pace, senza il quale non sarà mai compiuto l'obiettivo che gli uomini si sono posti quando hanno deciso di prendere nelle loro mani il proprio destino su questa terra, che è per l'appunto il destino di vivere in pace. Ecco, io ho finito. Adesso è inutile che applaudite, che tanto è uguale. Io spero di avervi dato... Grazie. A proposito delle regole definite nel 600 per le guerre, cioè il diritto internazionale, questo diritto internazionale è stato sì definito, però personalmente mi sembra che non sia rispettato da tutti, anzi ben poco è rispettato. E appunto per questo motivo volevo chiedere se a parer suo è giusto che quello che ha compiuto Saddam Hussein, il quale inizialmente ha conquistato il Kuwait, è stato cacciato dal Kuwait e adesso se la prende con i curdi. Certo. Volevo sapere appunto cosa ne pensa lei di questo fatto, certo, che mi sembra poco umano, ecco, diciamo, certo, così. Certo. Sì, allora, naturalmente questa qui è una domanda molto complicata perché riguarda cose che sono in corso adesso. E lì bisogna sempre distinguere, purtroppo noi vecchi che facciamo poi questo mestiere qui di fare gli studiosi, dobbiamo sempre distinguere, e distinguere si finisce che non risponde alle domande. Bisogna sempre distinguere intanto due problemi. C'è un problema morale, no? C'è un problema etico e c'è un problema concreto di intervento, insomma, per evitare che certe cose accadano, certe cose immorali accadano. Sono due cose diverse, però, purtroppo. E infatti tutta quella roba lì che ho letto stamattina, tutto questo percorso è stato, della formazione dello Stato moderno, è stato un lento percorso con cui si è cercato di apprestare strumenti concreti di intervento per impedire che cose profondamente ingiuste o sentite come ingiuste, come immorali dalla gente, si verificassero, no? Allora, per quel che riguarda l'oggi, non c'è nessun dubbio, nessun essere umano può dire che Saddam Hussein si sia comportato e si stia comportando bene. Si comporta molto male, si comporta da delinquente, tant'è vero che qualcuno dice che bisognerebbe processarlo, ma il fatto che si comporti da delinquente purtroppo non risolve il problema. Il problema com'è che si fa a risolverlo? Il problema nella nostra coscienza, quel che sappiamo noi, per quella che è stata la nostra storia, noi abbiamo imparato a risolvere certi problemi in certi modi. Chissà quanti altri modi ci sono per risolvere i problemi della convivenza, no? Noi abbiamo inventato il modo della politica. Cioè, la politica cosa vuol dire? Vuol dire creare una struttura più o meno controllata, in democrazia è più controllata e quando non c'è democrazia è meno controllata, una struttura che è fatta di quegli apparati che ho detto, che è una struttura che consente di impedire che all'interno dello spazio entro cui quella politica lì vige, no, si possano commettere dei crimini, per esempio, no? Questo è quello che noi, è il modo che noi abbiamo inventato, noi occidentali, ma poi tutto il mondo fino adesso, per impedire appunto crimini, per impedire che vengano commesse delle azioni immorali. Cosa consiste sostanzialmente questa politica così come l'abbiamo attuata noi, per esempio, nello Stato? Appunto, significa fissare, creare, costruire un ordinamento, cioè un insieme di norme, no? Precise, in cui si dice questo si può fare, questo non si può fare, e poi dopo però anche costruire una struttura tale per cui queste norme vengano rispettate, no? Per cui se qualcuno non le rispetta viene punito, o comunque viene messo in condizione di non violare più quelle norme. Questo è quello che noi abbiamo inventato come sistema, che è il diritto. Abbiamo usato molto lo strumento del diritto, che è una invenzione degli uomini, perché non è che stava scritto gli alberi, i codici non stanno in cima agli alberi, bisogna farli, no? A un certo punto gli uomini hanno capito che bisognava fare i codici. I primi che hanno inventato questa roba qui sono stati gli antichi romani, come voi dovreste sapere. Gli antichi romani, quindi una roba molto risalente. Poi dopo si è perduta un po' questa abitudine, è stata ripresa appunto in questi secoli che ho detto io, nel Medioevo. Allora gli uomini, soprattutto gli italiani a Bologna, hanno riscoperto, con la nascita delle università, si è riscoperto l'importanza del diritto per regolare la convivenza. Ecco. Allora, tutto questo però fino adesso si è potuto realizzare, l'ordinamento ha sempre corrisposto con uno Stato, perché l'ordinamento per poter essere efficace ha bisogno di essere protetto e lo Stato è appunto quel sistema di forza, di apparati che può anche proteggere l'ordinamento. Cosa succede in campo internazionale dove non c'è uno Stato, non ci sono più Stati in conflitto fra loro? Questo è il grande problema. L'unica soluzione è quella di arrivare a costruire anche a livello internazionale una struttura, un ordinamento che non sia solo fatto di morali, di principi morali, ma che sia fatto di norme e che siano norme che poi possono essere controllate. Perché una norma giuridica, una legge, è fatta di due parti che sono strettamente legate fra loro. Se non c'è la seconda parte non c'è neanche la prima. La prima parte della legge è il comandamento, cioè quello che si può fare, quello che non si può fare. La seconda parte della legge è la punizione. Senza la punizione, senza la forza di cui la legge è dotata per poter punire quelli che la violano, la legge praticamente non vige, è solo una legge morale, non è una legge ordinamentale, una legge concreta. Allora non c'è via d'uscita, l'unico cammino è quello, adagio adagio, di costruire una struttura internazionale capace di fare questo tipo di intervento. L'attuale struttura che esiste a livello internazionale, a livello mondiale, è l'Organizzazione delle Nazioni Unite, non l'ONU, la quale però è già un gran passo avanti rispetto a prima, perché insomma quantomeno è un luogo in cui si discorre, in cui si fanno più o meno dei bracci di forza, eccetera, eccetera. Però è ancora, non ha ancora la polizia, l'ONU. E allora cosa hanno fatto gli americani? Tirandosi dietro, in parte anche giustamente per certi aspetti, l'antipatia di tutto il mondo, dei pacifisti e così via. Sono diventati loro la polizia dell'ONU, sono andati giù da Saddam Hussein, sono intervenuti e gli hanno detto adesso te ne vai del Kuwait. Ma quello lì, perché quello lì era... Perché, nonostante tutto, tutto sommato, quell'intervento degli Stati Uniti poteva anche essere comprensibile? Perché interveniva sopra una violazione di un diritto internazionale. Cioè uno Stato, l'Iraq, ha invaso un altro Stato, il Kuwait. E questo è proprio contro il diritto internazionale. Cioè è un'azione, è stata un'azione di Saddam che è uscita dai suoi confini. E allora è caduta sotto la, in qualche modo, giurisdizione, diciamo così, dell'ONU. E quindi è stato possibile intervenire, che poi sia stato giusto intervenire così o non così, adesso questo non voglio stare a discutere, ma interessa la logica del ragionamento. Ma adesso con i curdi, Saddam Hussein lavora in casa sua, non viola nessun diritto internazionale, viola solo il diritto umanitario, solo, guardate che il diritto umanitario è molto di più del diritto internazionale, ma lo dico paradossalmente. E siccome lavora in casa sua, non c'è mica nessuna possibilità in base al diritto internazionale di intervenire. Bisognerebbe che questo diritto internazionale fosse così forte, così articolato e così sorretto poi da una giurisdizione e da una polizia, da poter poi entrare in tutti gli stati del mondo a impedire che succedano cose di questo genere. Come potrebbe per esempio fare lo Stato italiano, no? Se in una singola regione venissero commessi delle atrocità di questo tipo. Non so, adesso sto facendo dei paragoni che sono un po' forzati, ma insomma questo è il discorso. Allora, lo sforzo della politica, perché la politica non si ferma mai, la politica è una cosa buona, sapete, non è che bisogna vedere cosa succede solo in Italia, diciamo così, in questa dimensione che in questo momento ha molti aspetti di crisi della politica, perché tutte le cose del mondo hanno crisi, hanno momenti positivi, momenti negativi, eccetera, ci sono onde che vanno su e giù, sono bioritmi anche nella storia degli stati, ma la politica è una cosa buona, è l'unica cosa buona che gli uomini hanno inventato, perché appunto è lo strumento con cui si può fare questi discorsi e si possono inventare i mezzi per concretizzare questi discorsi. Allora quello che voi dovete fare con la politica è quello di far di tutto perché sempre di più il diritto umanitario venga a coincidere col diritto vigente. E che ci siano, però dovete anche sempre sapere che quando si parla di diritto si parla sempre anche di polizia, non c'è diritto senza polizia, perché sennò saremmo angeli e non uomini. Non si può essere per la pace sperando che gli uomini sono buoni, perché purtroppo gli uomini da quando sono stati inventati fino a oggi sono sempre stati cattivi. E questo purtroppo è fino ad oggi, non abbiamo ancora trovato la medicina per far diventare buoni gli uomini. Allora bisogna partire da questo dato di fatto, e se gli uomini sono cattivi hanno bisogno del diritto per essere guidati, e questo diritto è fatto anche di polizia, e quindi bisogna accettare anche questo momento finale della norma che è la disciplina, perché sennò il sistema non funziona, e se il sistema non funziona per un po' stiamo bene tutti perché stiamo tutti meglio senza disciplina, poi a un certo punto arriva un qualsiasi Saddam Hussein. E dopo stiamo improvvisamente tutti malissimo. Allora è meglio stare un po' meno bene con la disciplina, quotidianamente, per evitare che ogni tanto si debba star malissimo. Questo è il calcolo utilitaristico che gli uomini hanno fatto, quegli uomini lì di cui vi ho parlato, questi mercanti, questa gente attiva. Questo è il calcolo che loro hanno fatto in questi secoli di formazione dello Stato moderno. Per accettare la disciplina, il regolamento, il comando quotidiano, in nome di poter avere assicurata una possibilità di azione pacifica nel lungo periodo. E questa è la politica. Avanti, un'altra domanda. Qualche altra domanda di questo tipo, su. cos'è l'economia, cosa non è l'economia, ma il diritto come funziona, ma perché i politici italiani sono così cattivi, non lo so, quello che volete voi. Fate ancora una bella domandina, so. Qualche ragazza anche, no? Che le ragazze sono più brave dei maschi. Avanti. Qualche ragazza che ci parli della... Ho una piccola curiosità sulla politica. Lei dice che la politica è una delle poche cose di buone che ha fatto l'uomo. Però... Più lontano, sì. Però c'è un fatto. Qui in Italia abbiamo il governo che è piuttosto in crisi con il partito repubblicano che non vuole entrare nel governo. Nella CE c'è Kohl che dice che l'Italia prima di entrare nel 92 a far parte di questa Europa unita dovrebbe risolvere il problema della mafia, e infatti è della stessa linea politica di Bozzi, che è segretario della Lega Lombarda. Quindi mi sembra che questa politica sia piuttosto variopinta, diciamo, cioè tutti la pensano a loro modo, quindi molto, molto disfattistica per uno Stato come quello italiano, ad esempio. Quindi secondo me questa politica non mi sembra poi questo grande strumento per difendersi, diciamo, dalla guerra, perché appunto non è unita di per sé, cioè sono tutti, è come cercare di combattere un altro Stato con guerra interna, con una guerra civile all'interno. Sì, la politica in realtà è proprio il modo, la politica deve essere conflittuale, perché se la politica non è conflittuale al suo interno è brutto segno, La politica è esattamente il luogo, la sede in cui le differenti opinioni vengono a confronto fra loro, no? E da questo confronto emergono delle linee vincenti che sono, grazie a sistemi democratici attivati nel corso degli ultimi 200 anni, che sono di solito le linee di maggioranza, e queste linee di maggioranza vengono messe in pratica e accettate da tutti. Ma la politica deve essere conflittuale, perché se la politica non è conflittuale vuol dire che siamo in dittatura e non in democrazia. Quindi la politica deve essere conflittuale. Che sia conflittuale, quindi io sono contrario, per esempio, personalmente, a tutte le proposte di riforma che tendono a ridurre la conflittualità politica. Questo però è un primo punto. Secondo punto è che la conflittualità della politica deve rapidamente e con efficacia tradursi in linee di governo. Allora, le riforme che bisogna fare sono quelle relative a questo meccanismo, che è quello per cui dopo una discussione la più larga possibile e la più conflittuale possibile delle varie forze in gioco, si deve poter arrivare ha delle decisioni, e queste decisioni soprattutto, ed è il terzo passaggio, devono essere applicate. Allora noi abbiamo tre momenti. Primo momento, che è quello della conflittualità, che è molto importante. Secondo momento è quello della decisione, e il terzo momento è quello dell'attuazione. Su tutti e tre questi momenti ci può essere crisi della politica. La crisi della politica al primo momento è quella che porta dalla democrazia alla dittatura, quindi contro la conflittualità. La crisi della politica al secondo momento è quella dell'ingorgamento, diciamo così, dei meccanismi di decisione. La crisi della politica al terzo livello è quella della inefficienza dell'apparato amministrativo. Allora, quando noi vogliamo discutere della crisi della politica dobbiamo operare su questi tre livelli. Ma la politica intesa come l'insieme di questi tre livelli continua a essere l'unico strumento che noi abbiamo per convivere pacificamente e per convivere pacificamente migliorandoci, ammodernandoci, diventando cioè più ricchi, più felici e via dicendo. Allora bisogna fare di tutto perché questa politica continui ad essere operante in queste sue tre funzioni principali. Il motivo, secondo me, a mio avviso, principale della crisi della politica come complesso è da vedere nel distacco nel qualunquismo e nel distacco della gente dalla politica. La politica non è semplificazione dei problemi, come dice Bossi. La politica non può ridursi al fatto che i terroni devono stare a casa loro. Questo non è politica, questo non è neanche razzismo. Questa qui è imbecillità umana, pura e semplice. Allora, la politica consiste invece nell'individuare quali sono i problemi che esistono, cioè che creano conflitti, e nel trovare decisioni per risolvere questi problemi. Questa è la politica. E la gente deve capire che fare politica in questo modo vuol dire partecipare ai dibattiti, vuol dire schierarsi, prendere posizione, vuol dire aderire ai gruppi, alle associazioni, eccetera, eccetera, che discutono di queste cose, vuol dire assumersi responsabilità e non lavarsi le mani, vuol dire cioè fare politica. Quindi è un po' un giro vizioso, io sono convinto di questo. Il nostro sistema politico complessivamente non funziona come apparato amministrativo, fa schifo, non funziona proprio. Noi siamo in Trentino, che è probabilmente la regione italiana in cui l'apparato amministrativo funziona meglio, per una serie di motivi vari, prevalentemente storici, ma anche di buona efficienza dei nostri funzionari. Non abbiamo idea di cosa significa il funzionamento dell'apparato burocratico nel resto d'Italia, ma il nostro sistema amministrativo fa schifo, ed è a questo essenzialmente che si rivolge Kohl, quando dice l'Italia per entrare nella CE deve adeguarsi a quella che è lo standard, anche minimo, degli altri paesi europei. Quindi fa schifo il nostro apparato burocratico. Bisogna migliorarlo, ma si può fare, l'hanno fatto tutti. Cioè, ci sono delle tecniche per far funzionare l'amministrazione. Fa schifo il nostro sistema decisionale, perché indubbiamente il meccanismo, diciamo così, che adesso vige è stato in qualche misura eccessivamente occupato. Adesso sto facendo un discorso che normalmente non faccio, che anzi mi equivoco perché io sostengo delle cose diverse su questo punto, ma qui non posso dilungarmi. È stato occupato troppo, diciamo così, dalla partitocrazia, non dai partiti che io credo siano molto importanti, ma dalla degenerazione dei partiti che è la partitocrazia. Terzo luogo, fa schifo anche il nostro dibattito politico, perché la gente se ne frega troppo della politica. Quindi è questa la crisi della politica, ma questo non significa che la politica sia da buttare via, perché non abbiamo niente al posto della politica. Non c'è una macchinetta, un computer che possa risolvere i problemi degli uomini al posto degli uomini. I problemi degli uomini devono essere risolti dagli uomini. Quindi per voi c'è la necessità di capire sta roba qui, che la politica è fatica, che è anche una cosa un po' sporca. Ma perché è sporca la politica? La politica è sporca come è sporco il sistema fognario, capite? Le fogne a cosa servono? Servono a evitare che in giro per le strade ci siano le cacche di tutti i cittadini, capite? A questo servono le fogne. E la politica serve a evitare che in giro per le strade ci siano i conflitti di tutti i cittadini, che anche sono puzzolenti e sanguinosi. Questo è il senso della politica. Quindi inevitabilmente la politica è un po' sporca. Non si può evitare questo, ma produce un benefico effetto, che è quello di evitare gli scazzottamenti. Questo voi dovete capirla, saperla che è così. Andate in giro a guardare i quadri o le stampe vecchie, no? E vedete dalle illustrazioni come era conflittuale la vita di un tempo, più di adesso, più manifesta. Non che adesso gli uomini siano più buoni, non credo, ma però sono costretti dall'ordinamento a essere meno conflittuali. Questo è molto importante. Ma di questo bisognerebbe che voi vi convinceste di più di quanto non siete. E non è necessario per far politica, io lo dico, voglio dirvi anche questo, perché voglio che sia chiaro anche questo fatto qui. Far politica da giovani, certo che uno che fa politica da giovane è tendenzialmente di sinistra, no? Cioè è estremista, perché è logico, da giovane le cose si vedono sempre a colori forti, in bianco e in nero e via dicendo, questo è naturale. Però non dovete neanche credere che la politica buona sia solo quella dei partiti di sinistra. La politica buona è quella di tutti i partiti, qualsiasi interessi, perché gli interessi nella società sono tanti e tutti hanno diritto di essere rappresentati. E in democrazia devono essere poi, vincono quelli che sono maggioritari. Quindi tutti i partiti sono buoni, in tutti i partiti si può praticare. Non è necessario per un giovane che far politica significhi far politica in un partito di sinistra. Può farlo anche in un partito non di sinistra se non gli va bene. L'importante è che faccia politica in qualche posto. Io questo lo voglio dire, perché sennò altrimenti sembrerebbe che si crea una donna sulla pace femminile, non lo so. Come c'è il problema della pace sociale, della pace internazionale, c'è stato e c'è ancora un problema di pace fra i sessi. Non in merito a questo, ma ricollegandomi a quanto diceva lei, questo disinteresse, anche e soprattutto nei giovani, io vedo in classe, io cerco di parlare molto di tante cose, anche di tante cose così, discorsi comuni, chiamiamoli. E non so, volevo fare una riflessione che mi capita in mente al momento. Il disinteresse anche da parte della popolazione, per conto mio, porta i nostri politici ad avere delle conflittualità non in merito all'interesse comune, certo. Ma in merito all'interesse personale, per cui adesso mettono in forse la formazione del governo perché uno perde la poltrona, quell'altro voleva la poltrona vicina e cose del genere. E questo per conto mio è molto grave, soprattutto perché noi brontoliamo di fronte al televisore, però poi quando siamo fuori, anche fra di noi, non ne parliamo affatto, ci facciamo la battutina che dura mezzo minuto, certo. E tutto finisce lì. Certo. E poi piangiamo addosso a noi stessi, certo. Quando ci capitano le docce fredde improvvise, che certo. Poi improvvise non sono in realtà. Sì, questo è molto giusto, insomma. Io credo che appunto, io non credo personalmente che ci sia tanto il problema degli interessi privati dei politici, perché i politici, io credo che la maggior parte dei politici ricavano il loro vantaggio dalla politica essenzialmente dal potere che hanno, insomma. Io per quel poco che ho potuto bazzicare, io non sono un politico, ma per quel poco che ho potuto bazzicare il mondo della politica, credo di aver capito che, tranne eccezioni rare che però ci sono e che vanno punite evidentemente, la molla che fa scattare la voglia di far politica, di diventare un politico di professione in un individuo, non è quella di guadagnare dei soldi e di ammassare ricchezze, ma è quella di avere potere, cioè di poter essere riverito dalla gente quando passa per strada, che la gente gli vada a chiedere dei favori, eccetera, eccetera. Molto banalmente è così, ma è una cosa che io dico in maniera così semplice, ma che ha delle grossi fondamenti di tipo psicologico. Questo lo dico in positivo, nel senso di dire che non è che sia particolarmente preoccupato dal problema della corruzione, insomma, no? Però invece è molto vero quello che diceva la professoressa, e cioè che fin quando noi non parliamo e non portiamo i nostri problemi, la politica, che è fatta non da noi ma dai politici di professione, rischia di essere fatta su problemi falsi, su problemi distanti da quelle che sono le reali esigenze della gente. Per questo qui bisognerebbe riuscire a incrementare il dibattito e la partecipazione di tutti, scrivere lettere ai giornali, insomma, fare queste robe qui, perché in questo modo si rompono le scatole, però si presentano anche dei problemi che altrimenti sfuggono. Una sola piccola annotazione rispetto al problema del governo adesso. Io non sono personalmente repubblicano, però devo dire una cosa, che opposto dai repubblicani, dal partito repubblicano in questi giorni, di non partecipare al governo perché erano state tradite certe promesse che sono state fatte, come un semplice desiderio di avere delle poltrone in più o di un certo tipo. Perché in realtà direi che il discorso è più complicato ed è anche più brutto. Perché in realtà, quando appunto è un caso di studio questo qui, no? Ci riporta quello che dicevamo prima, come funziona la democrazia. La democrazia nel nostro paese funziona da molti anni con questo sistema di alleanze di partiti che formano il governo. E allora, quindi cosa significa? Che c'è un dibattito preliminare fra diverse forze, fra diversi interessi, da questo dibattito viene fuori una linea che richiede un'alleanza fra queste forze qui, e allora viene espressa una politica che è una politica che deve tener conto di tutte queste forze. Se il sistema è questo, come è, allora è logico che nel dibattito che c'è stato per la formazione di questo governo si fissano determinate diciamo così, clausole di questo. Ecco, se queste clausole poi all'ultimo momento vengono tradite, semplicemente per fare in fretta, o semplicemente per, diciamo così, raggiungere un obiettivo che è il governo a tutti i costi, secondo me questo è un fatto impolitico, un fatto di cattiva politica, perché non c'è nessun bisogno di un governo a tutti i costi. Cioè, il problema la soluzione dei problemi italiani non è un problema a tutti i costi, un governo a tutti i costi, è un governo che faccia determinate cose. E se queste cose sono state stipulate nel dibattito e poi all'ultimo momento non vengono mantenute, secondo me ha perfettamente ragione la forza politica che si sente tradita di dire: io allora non partecipo più a questo tipo qui di governo. Tanto più che poi la presenza dei repubblicani non è decisiva per la formazione del governo, perché la maggioranza c'è lo stesso, e quindi la presa di posizione dei repubblicani ha un significato esclusivamente politico. Quindi io, che sono sempre stato poco tenero con i repubblicani, devo dire che in questo momento ho proprio molto apprezzato questo gesto, perché loro poi in fondo non hanno mica fatto niente, hanno rifiutato tra le poltrone. Adesso non voglio però fare un dibattito politico, perché... No, volevo sottolineare che non esprimevo un mio pensiero personale, ma era l'impressione che io avevo raccolto parlando con i ragazzi, e questo mi preoccupa, nel senso che fa scadere delle cose che hanno importanza ad una valutazione che è così molto dosinale, tutto sommato, quindi si perde di vista quello che è veramente il problema reale. No, ecco, chiaro, quindi questo qui adesso, io poi ho la mia opinione, un altro ne ho un'altra, tutte le opinioni sono uguali, e quindi vanno bene tutte, però appunto io ci tenevo a far capire appunto come è un problema di contenuti tante volte, insomma, quindi anche sui contenuti bisogna stare attenti. C'è qualche altra domanda da fare, allora? Avanti. Si prepari qualche ragazza anche, No, lei ha parlato prima di stato assoluto, cioè sì. In questo dialogo che abbiamo fatto, questo suo discorso, ha descritto appunto efficacemente i processi di formazione. Però non le sembra che adesso, attualmente, questo stato assoluto è destinato a scomparire, sostituito magari da organismi più vasti, sovranazionali, come la Comunità Europea, invece al contrario, dal punto di vista amministrativo, dalle autonomie regionali, dalle province, insomma, da tutti gli enti locali? Sì. Certo, infatti questo è il discorso, questa domanda qui lui dice, no? Abbiamo parlato dello Stato moderno come Stato territoriale, poi nazionale, no? Però oggi, ai giorni nostri, alla fine di questo secolo, del XX secolo, noi vediamo che ci sono due tendenze che vanno proprio in direzione opposta rispetto allo Stato nazionale. Una tendenza va sopra lo Stato nazionale, allargarlo, no? Organismi, strutture più larghe, europee, addirittura planetarie, mondiali, come l'ONU, eccetera. E sotto, invece, queste autonomie, di cui il Trentino è un'espressione molto importante, no? Queste regioni dotate di poteri particolari, quindi uno spezzettamento verso il basso e un allargamento verso l'alto dello Stato nazionale. Allora, esatto, è proprio quello. La politica è questo, cioè il processo di adeguamento del territorio su cui si esercita la politica a quelli che sono i nuovi bisogni. No? Abbiamo visto che, io ho cercato di mostrarvi che nel 5-600, quando si è formato inizialmente, insomma timidamente, lo Stato territoriale moderno, questa faticosa costruzione di un apparato statale su un territorio chiuso, confinato, e che corrispondeva alle esigenze anche dello sviluppo economico, tecnologico e via dicendo, no? E quindi, diciamo così, lo Stato moderno come territoriale che si è formato è stata una specie di fotografia, no? Di quello Stato lì, di quella situazione lì, di esigenze economico-tecnologiche, ma anche culturali e via dicendo. Ecco. Ora, poi dopo le esigenze sono cambiate, la politica deve essere capace di tenere dietro queste esigenze. La politica si deve aggiornare in modo da tenere dietro queste esigenze. Le esigenze di oggi sono appunto queste. L'economia oggi, da tempo, è un'economia mondiale, non è più un'economia nazionale. No? I mercati sono mercati mondiali. I grandi soggetti che operano oggi, come il mercante di Siena o di Pisa, del 400, non limitava più la sua azione all'interno della città di Siena, ma andava, no, con le sue merci, con le carovane in altre città, Quindi aveva bisogno di sempre di più di regole che proteggessero la sua attività anche quando lui si spostava da Siena. Così è nato lo Stato territoriale. Oggi il grande mercante, il grande produttore, la Fiat, la Olivetti, per dirlo gli italiani, insomma, sono soggetti internazionali, non sono più soggetti italiani, no? Se noi guardiamo queste grandi imprese, sono tutte imprese internazionali, multinazionali si dice, no? Da tanto tempo, da almeno 40 anni è così. Quindi esiste già un'economia che è mondiale, che però è costretta ancora a lavorare con in ordinamenti che sono ordinamenti statali. Voi non lo sapete forse, ma ormai il diritto più importante che c'è nel mondo, voi sapete che ogni Stato ha un diritto, no? Ha un codice civile in cui vengono regolate le leggi che regolano per esempio i contratti, che sono le robe con cui si fanno i commerci, quindi le robe che interessano agli imprenditori, no? C'è un codice civile italiano che vige in Italia, no? Così come ce n'è uno francese, come ce n'è uno tedesco. Ma voi credete che l'attività seria della Fiat o della Olivetti possa essere regolata ancora da questi codici nazionali? Niente affatto. Ormai questi grandi soggetti economici mondiali hanno formato un loro diritto che non è più né il diritto italiano né quello francese, ma che loro usano per fare le loro transazioni. Che diritto è? Chi l'ha fatto questo diritto? Questo diritto non l'ha fatto nessuno. Questo diritto l'hanno fatto gli avvocati, i grandi avvocati mondiali, che guadagnano fior di miliardi, beati loro, no? I grandi avvocati, i grandi studi giuridici, di giuristi, di avvocati che stanno nelle grandi città, che parlano tra di loro non in telefax, ma addirittura con i sistemi di comunicazione, fanno le conferenze addirittura con i sistemi di comunicazione a distanza, con i sistemi televisivi, no? Questi qui si mettono d'accordo tra di loro per quel che riguarda, se la Fiat ha un problema che coinvolge l'Italia, il Brasile e la Francia, mette insieme tre avvocati, uno brasiliano, uno italiano e uno francese, con questo sistema, oppure si trovano in una città gradevole, questi si mettono lì, risolvono la transazione in modo assolutamente privatistico e in questo modo formano diritto, perché quella decisione, quel lodo arbitrale, come si dice, che loro fanno, la volta dopo che succede un caso analogo, da più almeno diventa un precedente. E dopo che se ne sono fatti mille di questi lodi arbitrali, esiste un diritto che non ha nessun tipo di certificazione da parte dei singoli stati, ma che vige per questi grandi soggetti internazionali. Quindi questa è la realtà. Sono gli stati che sono in arretrato. È la politica che è in crisi, nel senso che non è stata capace di adattare i propri strumenti a queste nuove esigenze. Sono gli uomini, noi, che siamo in crisi, perché non siamo stati capaci di spingere la politica a inventare nuove soluzioni. Questo quindi cosa significa? Significa due cose. Significa che bisogna andare sopra e quindi bisogna arrivare a ordinamenti più larghi, internazionali, no? Sia per la privatistica, cioè per questi affari, come per quel che dicevamo prima, per le robe di guerra di Saddam Hussein. Quindi significa che bisogna andare sopra. Ma se si va sopra allo Stato nazionale e quindi lo Stato nazionale perde il suo potere di essere il garante dei confini, tutte queste robe qui, no? A questo punto automaticamente si libera anche la parte di sotto, è come se fosse un cilindro chiuso nelle due facce, no? Liberando la faccia di sopra verso il sistema internazionale, in qualche misura si spacca anche la parte di sotto, perché oggi si chiede: ma di tutte queste competenze che ha lo Stato nazionale a regolare la vita all'interno dello Stato, siamo proprio sicuro che tutte queste competenze devono essere gestite direttamente da Roma? Anche quelle relative a affari che riguardano comunità periferiche, locali, che potrebbero essere autonome e decidere da soli i loro affari? E si scopre che una volta che si è rotto il confine verso l'alto, si può rompere anche il confine verso in basso. Cioè si possono ridare autonomie a comunità che stanno in periferia. E questo è il... Voi sapete che tutti gli stati nazionali d'Europa sono ormai segnati da questi ordinamenti di tipo regionalistico, no? Molto più ancora dell'Italia. E allora è la crisi dello Stato nazionale non è mica un fatto negativo, è un fatto positivo, significa che la politica funziona. È semplicemente il fatto che esso non è più adeguato a risolvere i problemi che si presentano oggi alla convivenza. E quindi lo Stato nazionale deve essere adagio capace di trasformarsi in cedendo le sue competenze verso l'alto e verso il basso, in un sistema nuovo che avrà un altro nome probabilmente, quando lo daremo, quando ci sarà qualcuno che glielo darà, e che sarà il sistema internazionale. Comunista. Un misto, certo, un misto, una cosa nuova, perché si inventano cose nuove andando avanti. Lo Stato territoriale, quando è stato formato come Stato assoluto nazionale dal 5 all'Ottocento, non è che ha buttato via tutta l'esperienza medievale. L'ha come in qualche misura rimescolata e gli ha dato una nuova organizzazione. Lo stesso sta accadendo adesso, anche se noi non lo vogliamo. Ma se noi lo sappiamo e lo vogliamo è molto meglio, perché siamo partecipi. Allora, questa ragazza si è preparata? Fa una domanda sulla pace delle donne. Possibile che non vi rendiate conto di quanto nel problema della pace sociale sia coinvolto anche il problema delle donne? Ancora oggi, mica è finita, eh? Vabbè, io direi che se non ci sono altri che vogliono fare qualche domanda, siete già qui da 2 ore, quindi avete diritto di essere stufi. Vi ringrazio, cercate di prendere... Cercate però queste cose che vi vengono dette, cercate qualche volta di metterle anche in pratica se potete.